Arsalta, un programma di e con Marsi e Enzino, alla conduzione tecnica Simone. One. Buonasera, simpatici amici. Seconda edizione di Piazza Alta dalle magiche frequenze di Radio F. Siamo di nuovo insieme. Ma da quando? Dal 1976. Come state? Come avete passato questi mesi? Ma intanto. Ma, magnificamente. Ma prima di tutto ci occorre fare un saluto a Sara, che quest'anno non sarà con noi in questa avventura perché ci sono altri impegni. Ma potrebbe riservarci delle sorprese. Chissà, ma perché non ci mai lì? Bravo. Quindi un saluto a Sara, compagna dell'avventura dello scorso anno. Noi quest'anno proviamo ad andare avanti da soli, come 20 anni fa, ti ricordi, cari il mio Marzi? Certo, giusto appunto stasera ho trovato un gentile compaesano che si ricordava della nostra avventura in terra laziale. Ma lasciamo perdere che... E mi ha chiesto anche, ma come si fa a entrare a Saxaruba? Si suona. Noi abbiamo suonato. Allora, un saluto anche da Simone... Ciao a tutti. Oh, che lui è sempre alla parte tecnica. Da contratto quest'anno può dire 8 sillabe in tutta la trasmissione. Ciao a tutti. Sforato. Allora, magari qualcuno ci ascolta per la prima volta, perché sai, anno nuovo, vita nuova. Chi siamo? Io sono Marsi. E io sono Enzino, ma il programma si chiama Piazza Alta, raccontiamo storie di Foiano e stasera iniziamo di corsa. Fra un po' capirete anche il perché. We'll be right back. un inizio al fil di cotone, direbbe la mia nonna. Al fulminante del cotone. Al fil di cotone. Erano i Metallica con Enter Sandman dall'album Black Album del 1991. Potrei dirti tante cose, potrei dirvi su questo, ma però possiamo posso dire anche questo, che la colonna sonora, senti, la programmazione musicale di stasera sarà molto attinente ed inerente al tema che andremo a trattare, al personaggio e all'argomento che andiamo a trattare, che ma tra come? Un po' presenteremo. Ma come? I nostri radioascoltatori ci possono seguire, caro il mio Enzo, naturalmente sulla frequenza 101.2, sì, certamente, in FM, benissimo, in streaming su www.radiof.it e che per coloro che ancora inavvertitamente non lo avessero ancora fatto, scaricando la nostra app sia per Apple che Android. C'erano i puntini. Allora, ma non solo, caro il mio Marzi, cari, certo, i nostri amici. Poi noi siamo connessi e vogliamo un abbraccio ovunque. Oltre ai vostri I like, vogliamo anche gli abbracci fisici. Ah, diciamo, cioè, quindi, quindi cioè, pigliamo appuntamenti tramite Facebook. Beh, quindi, ma non è bello detto così, però vabbè. Pagina Facebook, Piazza Alta. Siamo, certo, arrivati quasi a 400 amici. Ma non dico che stasera ambiremo a arrivarci. Quasi tutti pagati, ovviamente. Ma comunque, insomma, il primo obiettivo che abbiamo è per il nostro gruppo di arrivare a 400, ma non solo Facebook, sentilo, cos'altro c'è, Marzi? Ma io non, non lo so, sai. Andiamo un po' casa per casa, porta per porta a porta. No, allora, intanto la trasmissione che state ascoltando in diretta la risentirete da domani sempre sulla pagina Facebook, perché il nostro Simone si alzerà alle 5 di mattina come sua consuetudine. Avrete capito che il nostro intento è 4:30. Il nostro intento è tormentarvi, quindi, esatto, in ogni caso. E non solo, sì, perché non solo in voce ma anche in audio, perché poi sul nostro canale YouTube Piazza Alta, non dico domani perché Simone si alza presto, poi va anche a letto presto, magari nei prossimi giorni vedrete anche degli estratti di questa puntata che si preannuncia favolosa. Pare che ci sia qualcuno dei nostri conoscenti che sta preparando qualche meccanismo che un giorno, anche aprendo il rubinetto dell'acqua della cucina o del bagno, verrà fuori. Io sto sempre lì, no? Dico chissà ora che cosa Piazza dice. E invece, ma se mi permetti, volevo dire una cosa un pochino più seria rispetto a... se nessuno di coloro che ci stanno ascoltando avesse scommesso l'anno scorso di ripotersi risentire, cioè se l'anno scorso ci fosse questo dubbio, figuratevi noi che dubbio avevamo. Noi eravamo certi che non ci saremmo risentiti. E invece siamo qua, una sorpresa per noi per primi. Figuriamoci. Ma adesso io ti starei a ascoltare per ore, tra l'altro. Anch'io, sappi, mi starei a ascoltare per ore. Però è arrivato il momento di presentare il nostro ospite. Allora, vorrei dire prima due parole e poi lo presentiamo. È un bell'uomo. No, è un bell'uomo. Piace, diciamo, piace alla gente. Ed che è stato già ospite nella scorsa edizione, assieme ad altri compagni di avventura. Quindi è un déjà vu. Ma questa volta, un déjà sentu in questo caso. Ma questa volta è da solo perché. Torna da vincitore. Assolutamente. Intanto torna, e questo è già tanto, e poi ci spiegherà perché. Io lo definirei un eroe dei nostri giorni. Un eroe, no? Buono. Perché un eroe ha fatto borghese. Una cosa. E via, così, citando milioni di film. Ma posso dire che intanto dico il nome. Si tratta di Roberto Buoncompagni. E poi invece vorrei dire... Che cosa? No, non lo so. Se c'è una presentazione da fare... Certamente, io avremmo preparato un qualche cosa. La buttiamo là, vediamo se è simpatica, perché secondo me ha delle chance. Cos'è sta musica, Marco? È sconosciutissima. Roberto Buoncompagni, detto Gambina, aretino, classe da vendere, il suo piede è diventato leggenda, i suoi calli adorati dei quattro continenti, di corsa da sempre, negli ultimi 5 anni focalizzato su gare estreme, su e la podistica Aves di Foiano, la 6 ore del donatore, corre Giocondo, camminata del donatore, lo sopporta da un po' Federica, alla quale mandiamo un caro saluto. Qui ognuno si fa gli affari suoi. Qui ognuno si fa gli affari suoi. C'è chi spaccia la droga, chi si spara una sega. Mariti annoiati cercano trastotati. Qui ognuno si fa gli affari suoi. Qui ognuno si fa gli affari suoi. C'è chi vuole incontrare di casa. Anime sole in cerca di sfago, divise fra sogno e realtà. Anime sole in cerca di sfago, divise fra sogno e realtà. Anime sole in un condominio, anime sole al cinema e bar. Anime sole ai bordi di strada di una metropoli atomica. C'è chi fa le flessioni, chi il bucato di notte, chi si annoia e progetta un perfetto suicidio. Qui ognuno si fa, qui ognuno si fa, qui ognuno si fa gli affari suoi. Anime sole in cerca di sfago, divise fra sogno e realtà. Anime sole in cerca di sfago, divise fra sogno e realtà. Anime sole in un condominio, anime sole al cinema e bar. Anime sole ai bordi di strada di una metropoli atomica. Anime sole in un condominio, anime sole al cinema e bar. Anime sole bordi di strada di una metropoli atomica. I Cronaca e Preghiera con Condominio. Questa era la nuova proposta italiana che il nostro Simone, con cui il nostro Simone ci delizia ogni giovedì. Ah, tra l'altro dobbiamo salutare una band milanese barra fiorentina, molto più fiorentina che milanese. Sono all'ascolto, ci stanno anche salutando. Saluto anche un amico, Liubo, che praticamente ho avuto il piacere di conoscere, che fa parte di questa band. E questa era la novità discografica per questa settimana. Ma sembrano veramente amici DJ ragazzi. Amici Anzino, dai dai dai. Io invece saluto Augusta. Ah, iniziamo subito. Sì, sì, saluto Augusta perché ha struncato il mi piace sul nostro profilo Facebook. Ok, allora iniziamo. Ok, come già anticipato, dicevamo che inauguriamo questa nuova stagione ospitando Roberto Boncompagni, che hai presentato in un modo egregio. Ma mi sono un po' anche trattenuto, dico, no, ci sarebbe tanto da dire. Mi hai fatto tornare alla mia infanzia. Però è stato bellissimo, è stato bellissimo. Quella di Colpo Grosso. Detto Gambina, quindi, Roberto, definito eroe dei nostri tempi da parte mia, ma perché l'ho definito così, Marcello? Perché? Perché? Lo domandi a me. Sì, lo domandi a me perché io dovrei sapere qualcosa. Ti ringrazio, caro Enzo, per questa domanda estremamente arguta che mi hai rivolto. Hai fatto benissimo a definire Roberto in questo modo, perché lo scorso settembre ha disputato, come ci aveva preventivamente annunciato nello scorso intervento, la Tour de Jean. Allora, intanto, detto che fate tutto voi per me, io posso anche... Assolutamente, per te abbiamo in serbo delle cose importanti. Intanto salutiamolo. Ciao Roberto. E ciao, benvenuto. Grazie per la presentazione. Mai avuta una presentazione del genere. Ma pochi sono l'hanno avuta. Sì, ecco, qui solo per chi ha dei reati oltre 5 anni di detenzione. Allora, guarda, facciamo così: prima di andare col prossimo brano, dici subito, Roberto, di che cosa si tratta, Jean, che cos'è realmente, poi ci dirai la tua esperienza. Tour de Jean è una vacanza in Val d'Aosta. Sì, di 6 giorni. Sì. Con dove ti offrono paesaggi stupendi, vitto, alloggio, quindi assistenza, massaggi. L'ospitalità com'è? L'ospitalità è fantastica. Ecco, ma le persone ti acclamano, forse a fare questa settimana, scusa, di vacanza. Ma è vero che si possono fare delle belle lunghe camminate? Si possono fare camminate anche di 330 km, se uno lo vuol fare. Ma tutta in pianura? Tutta in pianura, sì, solo 24.000 metri di dislivello positivo. Ecco, quello che senti. Roberto ci sta dicendo in modo scherzoso, in realtà è un'avventura allucinante dal punto di vista mio personale, solo a pensarci. Tant'è vero che nella locandina c'era proprio scritto nell'invito: la gara si disputa dal 7 al 14 settembre. Esatto, esatto. Che non è, dice, dalle 15 alle 17. Sì, perché poi ci troviamo tutti alla baita. No, dal 7 al 14 settembre. Perché realmente guardavo sul sito, non ci sono i dati aggiornati di questo anno, però si parla di almeno i più bravi di 80 ore di corsa, 75 ore di corsa, qualcosa del quest'anno genere. Quest'anno il più, diciamo, il primo alla finita intorno alle 72 ore. 72 ore. Dormendo, ecco, solo 2 ore. Ecco, ma infatti poi ci addentreremo perché vorrei fare capire a tutti. Ma pare che questo abbia usato il parapendio per arrivare no, in questa posizione qui. Cioè, no, non è che qui si corre dalle 8 di mattina alle 8 di sera, qui si corre sempre. Si anche corre la notte. Da buio a buio. Da buio a buio, buio compreso. Senti, prima di andare con la prossima canzone, posso dire una cosa? Che è una settimana che me la tengo. No, pensavo all'incontro di stasera con Roberto, detto il Gambina, e la sua prestazione, la sua grande avventura, mi è venuto in mente il gigante e la Gambina. Oddio, beh! Baby, Bruce Springsteen con Born to Run dal 1975. Diciamo che era un Bruce Springsteen dannata da 1975. Bruce Springsteen. Ringraziamo anche Paolo che sta facendo le riprese e che sono, ciao, che rivedrete, ciao, che rivedrete sul nostro canale YouTube. Ma allora chiaramente rientriamo sempre dopo le 11 di sera, eh? Ma questo noi lavoriamo noi siamo gli uomini della notte. Allora siamo in compagnia del Gambina Roberto Boncompagni, parliamo del Tour de Jean. Sì, l'abbiamo buttata là con molta semplicità e molta leggerezza, ma si parla di un percorso di 330 km, praticamente che fa il giro della Val d'Aosta, e con un dislivello complessivo di 24.000 metri, cioè per rendersi conto, salire per 12 km e scendere per 12 km. Marcello mi preoccupa perché sta dando, lo dice anche il mio analista, lo dice anche d'aver studiato il percorso. Sì. Avrà intenzione di farlo. Ecco, Roberto l'ha fatta dal 7 al 14 di settembre, ma adesso Marcello farà una domanda intelligente. Silenzio. Se era una domanda generica, raccontaci un po'. Enzo è molto curioso di sapere la preparazione, anzi prima di tutto, come hai individuato, come hai preso l'obiettivo del Tour de Jean? Come ti viene in mente di farlo? Diciamo così, la passione passata la sbronza o prima? Cioè, durante. Diciamo, l'idea del Tour de Jean è nata al momento in cui mi sono accorto di amare soprattutto la corsa in montagna, corsa in natura, i trail, sì, più semplicemente i trail e gli ultra trail, quindi corse sopra i 42 km da fare in ambiente naturale, quindi montano. Ho scoperto il Tour de Jean e già 2 anni fa gli ho provato l'iscrizione che a quell'epoca era, diciamo così, ad estrazione, quindi a sorte, non mi è toccato. L'anno scorso ho riprovato e l'anno scorso sono stato più fortunato, anche perché la possibilità di iscriversi andava in ordine, diciamo così, di prenotazione, quindi chi era più veloce perché poteva. Quindi tu mi dici che è a numero chiuso, cioè non hanno difficoltà a trovare persone? Assolutamente. Anzi, considera che 600 sono i posti disponibili. Sì. In circa 20 minuti dal momento in cui aprono le iscrizioni, questi 600 posti sono praticamente spazzolati. Incredibile. Pensa che 600 partecipanti a tutto il mondo. Quest'anno c'erano 65 nazioni al via. Quindi diciamo, cioè, incredibile. È una gara unica nel suo genere. Sì, il Tour de Jean è una gara unica. Ad oggi non esiste gara trail, ultra trail come il Tour de Jean. Sappiamo che tu fai tante gare durante l'anno, ma qui hai fatto una preparazione specifica oppure hai continuato a correre e alla fine sei andato lì? Allora, la preparazione per il Tour de Jean io l'ho impostata in questo modo, cercando di fare tante altre corse, ecco, lunghe, quindi intorno ai 100 km, alcune di 80, alcune 50, alcune sopra 100 km, per arrivare pronto, tra virgolette, perché pronti ad affrontare una corsa del genere non ci si sente mai, anche perché sono tantissime le variabili, no? Immagini. Quelle meteorologiche, il tempo che uno, sì, può incontrare, insomma, abbiamo noi toccato vette anche di 3.000 metri, la componente fisica, l'infortunio, quindi le variabili sono tante, quindi non ti senti mai sicuro di poter portare a termine un'impresa del genere, però cerchi di arrivare quantomeno preparato, io l'ho fatto utilizzando e sfruttando la partecipazione ad altri ultra trail. No, poi io volevo anche dire una cosa, che intorno a Roberto non c'è soltanto Roberto, ma nella preparazione volevo sapere, sì, per questa gara proprio così particolare, se ti ha aiutato anche qualcuno, diciamo, di quelli che normalmente sono del tuo, diciamo, del tuo entourage. Sì, perché io leggevo su Facebook nel periodo di preparazione, appunto, cioè, seguivamo la tua preparazione su Facebook. Abbiamo un po' sofferto con te. Ora, sudato no, ma sofferto sicuramente. Anche della gara abbiamo letto, poi dopo però ne parliamo. No, nel senso, comunque sì, hai avuto altre persone che ti hanno dato una mano. Diciamo che quando uno affronta un viaggio del genere, io non mi sono sentito mai solo. Ecco. Perché, ma sia durante la corsa, perché a parte c'era mia moglie e Simona che mi hanno assistito, diciamo così, alle basi vita quando arrivavo, diciamo, ai punti di ristoro. Mia moglie ha fatto anche dei lunghi tratti di percorso con me, Quindi è possibile correre mentre sì. Anche se non sei iscritto? Sì, anche se non sei iscritto. Sono sentieri segnati, l'alta via numero 1 e l'alta via numero 2 della Valle d'Aosta, aperta a tutti. Okay. Quindi te trovavi lungo il percorso gente che faceva trekking, gente che faceva passeggiate, e qualcuno, magari anche qualche conoscente, ti può assistere per alcuni tratti del percorso. Quindi io non mi sono sentito solo né durante la corsa, ma neanche durante i mesi che l'hanno preceduta, insomma, perché molte persone mi hanno dato così da forza, incoraggiamento, hanno fatto corse con me, trail, e quindi il supporto era totale da parte dei conoscenti, da parte del gruppo, da parte di tutti. Bene, ecco, ma io sono curioso, mi ha dato uno spunto, ma con che occhi le persone che incrociavi in queste mulattiere di alta montagna ti guardavano? Con un occhio compassionevole, come dire, sento le mucche, io, la mulattiera, sento il campanaccio delle mucche. Ma veramente è uno spettacolo, perché io non ho trovato, giuro, una persona lungo il percorso che non abbia avuto una parola di conforto nei nostri confronti. Bello. Tutti a darti un incitamento, una parola di incoraggiamento. Addirittura noi attraversavamo paesi anche la notte, con le macchine, con le auto si fermavano, tiravano giù i finestrini. Bellissimo. Per darti una parola di conforto. Bellissimo. La Val d'Aosta si ferma per questa corsa, e i valdostani sono persone fantastiche. Bello. Io, ragazzi, io andrei con un brano, perché questa è poesia pura. Hai da aggiungere qualcosa? Certo. Ecco. Oh, AC/DC, It's a Long Way to the Top. Ma ragazzi, that's incredible. If you want to rock and roll, wow. Dall'album TNT, una pietra angolare assoluta del rock del 1975. Lo faccio solo per questo. Radio F. Vabbè, non se l'era già detto. C'è due brani allora, del 75, questo a me mi fa piacere. Te sei, è perché Roberto è del 1975, ma qui niente è fatto a caso, eh? Certo, solo, certo. Solo brani che parlano di corsa e che siano dell'anno in cui sei nato. Non voglio fare i nomi di altri emittenti anche a livello internazionale, ma nessuno sarebbe riuscito a fare questo. Avere un culo così. Soprattutto, soprattutto non sapendo la data di nascita. Allora, arrivederci. Ma se torniamo seri, ma compivo gli anni il giorno in cui partì il Tour de France, 7 settembre 75. Incredibile. Ma, cioè, l'anno scorso il leitmotiv della trasmissione è stato il giovedì, adesso succede tutto, ora c'è questa del 75. Vediamo dove andremo a finire. A finire. Allora, torniamo a parlare finalmente, sì, nuovamente finalmente con Roberto, perché le domande sarebbero tantissime. Allora, la prima gliela faccio le risposte, se sì, ne hai no. meno. Allora, guarda, ti faccio una domanda che secondo me non ha nessun senso, cioè non conta assolutamente niente. Guarda, ti si addice, ora sono proprio curioso. Che tempo hai fatto in questa gara? Si chiama gara? Boh, non lo so, non saprei nemmeno. Questa è un'esperienza. In questa avventura. Che tempo hai fatto e se ci sono i piazzamenti? Ma lo so che non serve veramente a niente, perché solo il fatto di essere arrivato in fondo. Scusa, Roberto, pare che il tabellone diciamo sì. all'arrivo sia si intitoli Sopravvissuti. E su quello poi vengono declinati tutti i nomi e gli ordini di arrivo. Prego, Roberto. Allora, io sono arrivato 216esimo su 600 che partiva. Allora, 600 sono, come dicevo prima, i posti per i comuni mortali, per gli amatori. Sì. Poi ci sono dei posti, quindi dei pettorali riservati ai top runner, insomma, gli imbucati. Beh, no, non proprio. I partenti eravamo circa 740. Vabbè, non so, voglio dire, quindi anche un piazzamento. Sì. Non solo, no, ma arrivati aspetta. Però qualcuno ecco. meno. Ritirati 444. Non fare la 444 arrivati, ah, quindi ecco, circa okay. 300 ritirati. Ok, basta, non fare altre domande, Marci, su questa cosa perché assolutamente. Lo so. E che tempo, Roberto? 128 ore. Io sono stanco. Facciamo 24, 48, 96, 120, 5 giorni e qualcosina. 5 giorni e qualcosa. Oh. Allora, mi permetti una domanda a me? Vai. Perché avrei voglia di farne tante. No, questa è una cosa che mi preme, perché parlando, diciamo, al ritorno da questa avventura, Roberto mi ha dato qualche input e una cosa mi ha veramente colpito. Hai corso, hai fatto, diciamo, eri in pista, eri in movimento, anche si corre anche di notte. Sì. Ecco. Ma di notte, spiegaci un po', in mezzo ai boschi, intanto, nelle mulattiere, esatto, come ti al orienti? Buio. Allora, noi chiaramente affrontiamo la notte con una frontale, quindi una lampada frontale. Okay. Da speleologo. Sì, ti ho visto allenarti stasera. Il percorso è segnato benissimo, quindi ah, okay. ci sono dei segnali, delle bandierine catarifrangenti. Quindi, okay, quindi molto visibile. Il percorso è visibilissimo. Tra l'altro, come dicevo prima, noi percorriamo due sentieri che sono l'alta via numero 1 e l'alta via numero 2 della Valle d'Aosta, che già sono segnati di per sé, più sono rinforzati giusto per il transito di questa corsa. Quindi il percorso, diciamo, nel percorso è difficile sbagliarsi. È vero che poi subentrano varie componenti, una tra tutte il sonno. Ecco, infatti la domanda successiva era questa: quante ore hai dormito? Ti fermi? Hai dei posti dove fermarti? Allora, io mi ero documentato un po' sul Tour de Jean. Ci sono delle statistiche anche dietro questa corsa. Okay. Alcune dicevano questo, che se qualcuno si fermava a dormire prima del centesimo chilometro, era difficile poi portare a termine la corsa. Non so io su cosa si basano queste statistiche. No, io ho cercato. Io lo so perché nei primi 100 chilometri ci sono i casinò, locali di intrattenimento. Quindi... Era un momento aulico. Te, Roberto, fai finta di non sentire. Probabilmente sì, ha ragione Marcello. Comunque ho cercato di non dormire. Se non ti sei fermato. 100 chilometri. Okay, anzi, poi sono andato anche. Ma la notte, quindi la prima notte, quando io sono partito verso le 10 di sera di domenica 7 dalla base vita, quindi dal 50esimo chilometro dalla base vita di Val Grisans, poi abbiamo affrontato da lì alla base vita successiva, che era Cogna, al 102esimo chilometro, c'erano due colli che io ho affrontato praticamente durante la notte, e lì ho avuto problemi di sonno. e mi chiedevi per l'appunto dove è possibile dormire, io mi sono messo a lato del sentiero, mi sono messo in terra e ho fatto dei micro sonni, insomma, okay. Si parla di sonni di pochi minuti, immagino, che però aiutano. Certo, io certo. Mi sono fermato due volte, quindi non è che sono stato ore a dormire, e poi sono ripartito tranquillamente. Sono arrivato quindi poi il lunedì verso le 2, 3 del pomeriggio, quindi a Cogne, base vita, quindi nelle basi vita, al di là dei ristori che si trovano lungo il percorso, c'è la possibilità di mangiare magari anche qualcosa in più, quindi di mettersi a tavola, volendo ci si può fare la doccia, ci sono anche posti dove si può dormire. Io lì ho deciso di, visto che tra l'altro eravamo nel pieno pomeriggio, di non dormire, e sono ripartito. La notte poi sono arrivato alla terza base vita, che era quella di Donnas, e lì eravamo intorno al 150esimo chilometro, e lì ho fatto la prima dormita seria di circa 2-3 ore. Beh, una dormita seria. No, la cosa che mi affascina è il fatto che li chiamino base vita. Sì, chiaro, cioè, perché spiega tutto. Allora funziona così, 6 sono le basi vita che si trovano lungo il percorso, quindi una ogni circa 50 chilometri. Uh-huh. Tra base vita noi non siamo comunque sia lasciati a noi stessi, ci sono dei punti di ristoro, okay, che di solito corrispondono a dei rifugi montani, dove anche lì all'interno dei rifugi c'è la possibilità di dormire, però capisci bene che all'interno di un rifugio sono strutture piccole, non ci sono molti posti letto, certo, quindi nel rifugio puoi dormire un massimo di 2 ore, giusto per dare la possibilità a tutti, okay, di poter schiacciare un pisolino. Io non ho sfruttato questa opportunità di dormire nei rifugi, ma ho preferito sfruttare le basi vita, perché sono strutture, insomma, forse anche un po' più confortevoli, ecco, rispetto ai rifugi. Ai rifugi però si mangia un'ottima polenta. Ecco. Ma indicazioni, allora, che chiaramente guarda, qui l'ufficio del turismo, noi ci siamo messi d'accordo. Come vedete l'argomento è interessantissimo, poi è veramente affascinante ascoltarti. Adesso ascoltiamo un altro brano che è di corsa sicuramente, e poi ci racconti anche un po' di cosa si mangia, come, e tante altre cose. Buon ascolto dalle F Frequenze. Ready, steady, go! Rock and Fold, Ready Steady Go. Ora mi sto divertendo come un pazzo. Pronti, attenti, via. E tutto questo, aspetta, incredibile, lo faccio, dal disco Bunka del 2002 della Perfecto Records. Se vuoi anche sapere, incredibile, incredibile. Non ero così una volta. Veramente ti stiamo perdendo. No, mi state acquistando in un'altra veste, caro il mio Marzi, ma... ecco. L'importante è che tu sia vestito, sicuramente. Siamo sempre in compagnia di Roberto Boncompagni, sì, al quale detto i gambini, ecco, no, al quale io volevo continuare un attimo con l'argomento che stavamo trattando prima, perché ho una curiosità. Ho introdotto il discorso di quando lui diciamo camminava o si riposava, eccetera, durante la Tour de Jean. Ma sono molto interessato alla notte, perché io mi sono fatto l'idea, sentendo Roberto, che diciamo non è solo, diciamo, un'elevazione fisica, questi 24.000 metri di dislivello che ha fatto, questi 330 chilometri di percorso, non sono soltanto una questione fisica di distanza, ma secondo me è anche un po' un'elevazione spirituale, caratteriale. Io lo sapevo che andavamo a finire. Vai, allora, vai. Le mie domande essenzialmente sono queste: com'è affrontare un'avventura di questo tipo la notte, dove probabilmente forse è il momento un po' più duro, dove uno è sempre un po' con se stesso, però la notte penso che sia un... mamma mia. Ma i sogni secondo voi aiutano a vivere? E ecco, se ci sono stati, Enzo, abbi pazienza. Vai, io siamo tutti. Sai che faccio difficoltà. Provo a tradurre? Sì, provate. Com'è stare da soli a correre la notte per tante ore? E la mia domanda è questa. Ah, non era questa. In che ordine hai visto i santi che ti sono apparsi e ti hanno sostenuto, guarda, per finire la, vero, corsa? Però una delle mie domande era questa. Non ti dico delle visioni vere e proprie, ma qualche sensazione particolare, qualcosa di curioso. Signora, vi racconto due cose, ecco, curiose. No, allora, correre la notte secondo me è molto suggestivo, molto, molto bello. Anche perché poi quest'anno abbiamo trovato, eccetto un giorno in cui ha piovuto, delle giornate fantastiche. Quindi abbiamo corso con un cielo stellato, era veramente, veramente suggestivo e bello. La notte è un problema che soffro particolarmente, il sonno. E ho avuto la fortuna di arrivare alle basi vita quasi tutte le sere durante la notte, quindi, durante la notte ho corso, ma non poi tantissimo. Due momenti particolari durante la notte sono stati questi. Il Tour de Jean, queste corse, diciamo così, questi ultra trail che durano più di un giorno, succede, è frequente che uno abbia anche qualche allucinazione. Bellissimo questo. Dovuta alla mancanza di sonno, ma anche allo sforzo fisico. Io un'allucinazione l'ho avuta. Era una cosa molto, molto semplice, niente di particolare. Qualcuno ha visto anche delfini. si parla di questo, insomma, che nell'ultimo colle al Malatrà qualcuno abbia visto i delfini. Insomma, siamo a 3.000 metri. La razza valdostana del delfino è rinomata in tutto il mondo. Il delfino stambeccato, voglio dire, da sempre. Non ho visto cose del genere, però. Mi è successo questo, di vedere lungo un sentiero una fontana di queste tipiche montane, dove c'è anche la possibilità di far abbeverare gli animali, con tre persone che stavano per l'appunto bevendo. Io ho deviato dal sentiero, sono andato verso questa fontana, sono arrivato lì ma non c'era niente. Bellissimo. Che spiegazione ti sei dato? No, la spiegazione c'è. I funghi non erano buoni. I funghi ho mangiato. I funghi dell'ultimo alla base avevano qualche... non erano buoni. Avevano qualche problema. Bellissimo. E un'altra cosa che mi è successo, questo durante l'ultima notte che ho corso, è stata questa. Io mi sono trovato per tre volte in piedi lungo il sentiero addormentato. No, cioè, tre volte realmente. Vabbè, questo posso sostenere. Si parla di pochi secondi, ma io per tre volte mi sono trovato in piedi fermo che dormivo. A me capita almeno un paio di volte alla settimana nel corridoio. Sì, ma te sei un essere che ha un fisico ignobile, no? Quindi è logico. Ma un atleta che si trova addirittura, cioè, te, mentre stavi correndo, rallentando, camminando, io mi sono dato questa spiegazione, perché è difficile pensare che mentre corri poi ti trovi fermo a dormire. Probabilmente è accaduto questo. Io mi sono soffermato perché lungo i sentieri a volte si trovano degli ostacoli, no? Okay. Può essere il masso che ha occupato parte del sentiero, quindi ti fermi un attimo per capire anche come aggirarlo. E io, secondo me, in quella frazione di secondo in cui mi sono fermato, Secco. Sono rimasto secco in piedi a dormire. Guarda, è veramente affascinante. È una cosa incredibile, a parte te che ti succede nel corridoio, Marzi. Ma diciamo che in una corsa in questo modo è veramente affascinante. No, io ho fatto il sentiero per andare dalla camera al corridoio fino al bagno. E lì ti sei addormentato due volte. Sì. Sugli stipiti, vabbè, sì, non importa. Allora, io veramente di domande ce ne sarebbero mille. Te ne faccio un'altra così, di quelle che vengono in mente. Abbiamo fatto un accenno all'alimentazione. Che cosa hai mangiato durante questi 5 giorni? Quante volte? Quanto? Mangiare spessissimo. Te considera che ogni 10 km circa c'è la possibilità di mangiare. Vedi, si ritorna alla dieta Okinawa. Tipo? Allora, la cosa più frequente che si trovano ai ristori, quindi ai rifugi lungo il percorso, fontina. E moccetta, che è un salume tipico valdostano. Salumi addirittura? Sì, sì, sì. Molto, tra l'altro molto buono. Poi chiaramente ci sono dolci tipo crostate molto, molto spesso. In alcuni rifugi abbiamo trovato anche persone che ci hanno preparato pasta, quindi pasta al pomodoro. In altri rifugi addirittura polenta, carne cotta alla brace, cioè si mangia. Quindi consiglio. E alla base vita addirittura ci si mette proprio a tavola. Oh, e lì giusto, c'è di tutto, quindi dai primi, secondi. Bellissimo. Quindi consiglieresti anche per fare, diciamo, birra, un tour enogastronomico della Val d'Aosta, il Tour de Jean. Facciamo. Sì, sì, sì, perché anche economicamente conviene, insomma, io lo dicevo prima, insomma, questa vacanza di 6 giorni in Val d'Aosta. Mi sembra che non è alloggio. Che... Ecco. Esatto. Non hai assimilato tantissimo. È andata benissimo. Allora, qui il tempo purtroppo sta veramente... No, correndo, diluvia, direi. Sta correndo via, non fare lo spiritoso. Quindi andiamo con un altro brano e poi ci ritroviamo ancora con Roberto per le ultime ma fondamentali domande. Traffico. We'll be right back. Questo è uno dei dischi più famosi della storia della musica, caro il mio Marzi. Del 1979, da The Wall dei Pink Floyd. E questo era Run Like Hell. Ma cioè io sono con i brividini, brividini sulle braccia. Vedo, c'hai il pelo irto, sembri un gatto in calore. La capacità di crollare è massima a proposito di The Wall. E siamo arrivati alla fine. Roberto anche fuori onda ci stava raccontando cose. Veramente avremmo potuto fare 3 ore di trasmissione. Anche 330 km. Però cerchiamo di essere concisi e vediamo di fare altre 2 o 3 domande. La cosa che mi aveva colpito a me, seguendo da casa... Dico seguendo perché su Facebook arrivavano notizie di tua moglie Federica che ci raccontava di averti visto ogni tanto. Vivo, in realtà come ha partecipato tua moglie a questa gara? Praticamente sia Federica che Simona mi hanno aspettato quasi sempre a tutte le basi vita. Loro si spostavano come? Loro si spostavano in macchina. Ah, ok. Tranquillamente. Anche perché le basi vita sono strutture che si trovano all'interno, insomma, di paesi raggiungibili, sì, tranquillamente in auto. Di solito sono palestre. Ah, le basi vita sono strutturate su palestre. E quindi lì mi trovavano e mia moglie ha fatto anche dei tratti importanti di percorso con me. In totale 70 km, dei quali 50 tutti insieme. Ah. Però sì. Molto molto molto una storia tenerissima. Sei vero. No, veramente sei il numero. No, è vero, è bellissimo. Ma tu hai dei preconcetti nei miei confronti, no, però che no, c'entra no, anch'io no. Il sentimento, ora voglio fare un'altra. Io cerco di fare domande serie, ma cosa ti lascia? Ma io te le lascio fare un'esperienza del genere. Intanto, quanti giorni di vacanza dopo la tendinite? Se ne fai? Cosa ti lascia la tendinite? La tendinite è vero, sì, sì. No, però realmente io sono stato dopo il tour 2 settimane senza fare. Meno male, no, perché avevo uno stinco, insomma, in condizioni precarie da fare con i fagioli, sì. Praticamente, no, però... sì. E il recupero di una corsa del genere, io sono arrivato al traguardo forse anche a causa per l'appunto della tendinite che non mi ha permesso gli ultimi 120-130 km di dare molto, molto camminato all'ultimo, che fisicamente stavo bene, a parte il dolore allo stinco, quindi recupero fisico velocissimo. Io sono arrivato venerdì, io lunedì ero al lavoro, quindi non è che ti lascia dei strascichi particolari. E 2 settimane dopo, tra l'altro, ho iniziato anche a correre, quindi abbiamo recuperato bene. Quindi lo consiglieresti, insomma, in fase anche di, non so, di riabilitazione. Sì, no, allora, si parla di questo Tour de Jean come qualcosa di veramente massacrante, impossibile. Io devo essere sincero, ora chiaramente, un po' scherzosamente, all'inizio ho detto mi sono fatto una vacanza di 6 giorni in Val d'Aosta. Sì. Dovreste vedere lo sguardo con cui lo dice. Allora... No, preparandola questa corsa, magari come ho fatto io, insomma, facendo tanti chilometri, altre corse, altri ultra trail che ti danno chilometri nelle gambe, ma anche la consapevolezza di potercela fare, facendo chiaramente tante migliaia di metri di dislivello. Io sono arrivato al Tour de Jean e devo essere sincero, io mi sono divertito. Ora, non voglio dire che sia stata una vacanza, ma io mi sono divertito veramente. E forse il prossimo anno si prova di nuovo l'iscrizione. Ecco questo. Infatti, siccome non solo questo, ma ci raccontavi quando ci siamo incontrati che hai anche un altro progetto, stiamo sforando un po', ma non importa, perché è una cosa che va al di là della fantascienza. Se tutto questo che vi abbiamo detto finora vi è sembrato molto, è niente rispetto a quello che hai in mente di fare. No, ci sono alcune tappe, diciamo così, a breve, media e lunga scadenza, diciamo così. Okay. Ora, prima di fine anno facciamo una maratona, perché una maratona l'anno così seria, l'ha detto anche, cioè, non l'avete visto, ma una maratona con aria di sufficienza proprio. No, a volte può essere più provante, sì, una maratona che, ora sembra di dirla grossa, no, che il Tour de Jean, questo no. Però alcuni mi hanno fatto questa domanda: è più duro il Tour de Jean o i 100 km del passatore? Io devo essere sincero, io ho sofferto più 100 km del passatore, perché sono 100 km su asfalto dove te, se ce l'hai, devi correre sempre. Tour de Jean ti mette anche a tavola. Giusto. No, questo... Hai dei paesaggi che ti aiutano, cioè c'è la salita, ma io non vedevo l'ora di arrivare in cima per vedere gli scenari che poi ti si aprivano. Cioè, pensa. Il lato romantico. Spettacolare. E però invece poi andiamo nel 2015, io riproverò sicuramente l'iscrizione al Tour de Chan, ma mi dovrebbe anche diciamo così, dovrei avere l'opportunità di partecipare anche all'Ultra Trail del Monte Bianco, quindi siamo sempre in Val d'Aosta. Sì, sei affezionato ai luoghi, via. Sono quelli. Per arrivare al 2016, ma seguite bene, seguite bene. Io ho fatto questa sorta di preiscrizione a questa prima edizione della Transpirenea, si chiama. Che è il nome, questo non è una corsa, anche l'organizzatore non sa neanche lui come definirla, perché non esistono cose del genere. Siamo alla praticamente attraversiamo, cioè è previsto di attraversare tutti i Pirenei, quindi dall'Atlantico fino al Mediterraneo. Ragazzi, chi c'è pare che appunto l'organizzatore dice: allora, se parte oggi, no, comunque, se parte, ascolta, questa ci dà, Roberto ci dà una indicazione, ci dà la possibilità anche di fissare un appuntamento, magari in una prossima puntata vediamo, insomma, vediamo. Sappi quanto in là. Noi Roberto ti seguiamo, anche se non ci facciamo sentire, ma noi sappiamo quello che stai facendo e dove stai andando e ti sosteniamo. Se torni non si sa perché ci vai, ma noi ti sosteniamo. Però se lo fai vuol dire che ora la ragione c'è. E perché non lo so, neanche io, ecco il perché. Ma no, ma lascia fare, non me lo voglio neanche ma lascia. Allora, ringraziamo Roberto, ringraziamo voi che ci avete seguito, vi ricordiamo ora tutto questo che abbiamo detto finora, lanciamo anche un messaggio positivo, nel senso che è Roberto è qui tra noi in salute, no, però uno sportivo vero, un eroe di oggi. Non iniziare di nuovo. Non iniziare. Ecco, magari se fossimo stati in televisione sotto ci sarebbe passata la scritta: non lo fate a casa. Ma questo, o quantomeno preparatevi. Allora, l'appuntamento, grazie ancora Roberto per essere grazie stato a con voi, noi grazie e complimenti. L'appuntamento, Marsi, è per giovedì. Giovedì, no, non martedì, giovedì. Non so. Sì, dai, giovedì. Giovedì vuoi. Prossimo, però gli appuntamenti sono anche su Facebook, abbiamo anche tutte le rubriche che abbiamo visto, ci seguite volontariamente. Volontariamente, ma ecco, ne parliamo dopo è bastata un'ora per il tuo analista m'ha già avvertito, non ti preoccupare. E sul canale YouTube sono veramente stanco. Marzi, finisci te o di qualcosa. Dal 1976 su Radio F. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Marzi e Enzino. Alla parte tecnica, alla conduzione tecnica, alla cosa tecnica, Simone. One. Grazie Paolo per le riprese.